Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Giancarlo Colombo. Una passione di famiglia. Dal cashmere all'abbigliamento. L'azienda nasce come azienda tessile, produttrice di tessuti di alta qualità. Il papà ha sempre avuto una peculiarità, quello di cercare di fare le cose non semplici, le cose difficili, perché già allora era nel suo animo di riuscire a fare quelli che gli altri non riuscivano a fare. E questo ci ha anche permesso di poter fare in futuro anche noi delle cose, diciamo, non di facile fattura. E quindi la competizione è subito nata a livello molto elevato. Da qui una ricerca profonda della materia prima, andare nei paesi di origine per cercare di avere le qualità migliori, perché il tessuto migliore esce dalla migliore materia prima. Diciamo, questo è sempre stato uno dei nostri goal, uno dei nostri traguardi, e aiutato però dalla ricerca della tecnologia. Il lanificio Colombo nasce nel 1971 nella città di Borgo Sesia, in provincia di Vercelli, e si sviluppa velocemente. Con un fatturato di oltre 65 milioni di euro e 350 dipendenti, l'azienda vanta tra i suoi clienti i più importanti marchi della moda a livello internazionale, come Calvin Klein, Ralph Lauren, Hermès, Yves Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton. A raccontarci la storia del gruppo è Giancarlo Colombo, figlio del fondatore Luigi, oggi alla guida dell'impresa insieme al fratello Roberto. Pur essendo nel biellese, non siamo dei biellesi, in quanto veniamo dalla provincia di Varese. Mio padre, rimanendo orfano molto giovane, ha trovato poi gli zii che erano biellesi e ha studiato presso l'Istituto Olivetti di Biella, diventando un disegnatore tessile. In quegli anni ha lavorato presso il lanificio che era degli zii, che era già allora uno molto conosciuto, che era il lanificio Barberis Canonico, uno dei fratelli. Durante gli anni 60 mio padre, chiudendo la ditta, quindi già in quegli anni lì c'erano delle crisi come oggi, è poi passato in altri lanifici biellesi. Poi, avendo tre figli che in quegli anni lì erano ancora studenti, e pensando loro, si è messo in proprio e ha iniziato con una piccola attività nella città di Borgo Sesia. È chiaro che mio padre ha iniziato in un salone piccolo con poche macchine comprate usate. Poi, dopo pochi anni, ha costruito da buon imprenditore un capannone nuovo e ha insediato nuove macchine, e in quegli anni lì siamo cresciuti abbastanza, fino a quando i tre fratelli si sono messi insieme, cioè sono entrati anche loro nella ditta nei primi anni, a fine degli anni 70, e hanno dato un grosso stimolo e una grossa innovazione alla ditta. I due fratelli più vecchi, io e Paolo, in parte si lavorava col papà e in parte si studiava, e poi invece Roberto, che era il più giovane, è entrato alla fine degli anni 70 e ha deciso di continuare il suo percorso a livello aziendale. Negli anni 90 la famiglia decide di iniziare a produrre anche abbigliamento, che oggi rappresenta circa il 30% del fatturato. Il settore del prodotto finito è un settore molto complesso, anche difficile, perché ci vogliono delle nuove professionalità, delle persone che siano preparate a affrontare questo discorso. Abbiamo aperto dei negozi e soprattutto ultimamente, aprendo il negozio di Milano, che è il nostro flagship store, cerchiamo di poter creare un marchio a livello internazionale. Utilizzando i nostri tessuti e i nostri filati produciamo dei capi di maglieria e dei capi di abbigliamento, sia uomo che donna, fatti esclusivamente con i nostri tessuti. La volontà è quella di aumentare la quota del prodotto finito, però la strada, non voglio dire che è ancora lunga, speriamo non lunghissima, però è sempre una strada difficile, è una strada in cui bisogna essere sempre innovativi nel prodotto. Come tutte le aziende italiane, anche il lanificio Colombo ha dovuto fare i conti con la crisi economica, che nel 2009 ha comportato una flessione dei ricavi. Ora le previsioni sono tornate positive e la famiglia è ottimista. Questa crisi ci ha fatto pensare un po' tutti. Noi da una parte abbiamo affrontato questa crisi cercando di apportare ancora maggior contenuto di ricerca nell'ambito aziendale. Dall'altra parte però a livello economico-finanziario abbiamo dovuto per il momento diminuire quello che era l'investimento in tecnologia e ricerca, soprattutto in tecnologia, che stiamo riprendendo ora. Ora vediamo un momento migliore, un momento forse più positivo, più che positivo, più ottimista di quello che è il mercato a livello internazionale, e quindi stiamo procedendo a nuovi investimenti, anche perché non abbiamo fatto dei voli pindarici o non abbiamo fatto dei passi azzardati negli anni passati. Dall'altra parte però una diminuzione del fatturato l'abbiamo avuta anche noi, che stiamo in parte riprendendo in questo momento, quindi il 2009, il 2010 è stato un anno di ripresa. Noi quest'anno abbiamo un aumento del 10% del fatturato, quindi non abbiamo recuperato tutto, però siamo in un trend positivo. Speriamo nel 2011 di poter tornare ai fatturati antecedenti il 2009, quindi il 2008, e speriamo che le condizioni di mercato ce lo permettano. Nonostante il momento critico, i dipendenti hanno mantenuto il proprio lavoro. Per Giancarlo Colombo, i punti di forza dell'azienda sono la professionalità della manodopera e il rapporto diretto e profondo con la clientela. Stiamo vedendo la possibilità nel giro di qualche mese di poter riassumere qualche persona, se continuerà il lavoro, il trend positivo come si prospetta, per dare un servizio maggiore alla nostra clientela o un servizio come siamo sempre stati abituati a dare. Diciamo quindi la sicurezza del posto di lavoro, non voglio dire che è garantita, perché oggi non si può garantire niente, però i nostri sforzi sono in questa direzione. L'azienda continua così ad espandersi, dopo 2 anni difficili, non solo in Europa, dove il mercato tedesco è uno dei più importanti per il business dei tessuti, ma anche negli Stati Uniti, in Giappone, Corea, India e soprattutto Cina. Oggi un paese in cui crediamo, è una realtà di fatto, che sta crescendo a 2 cifre, è il mercato cinese, dove abbiamo una presenza diretta con un ufficio a Pechino, che è stato, che sono 15 anni che opera sia nella materia prima che nel prodotto finito. E quindi ci aspettiamo dei risultati soddisfacenti per la nostra società. Ma diciamo che di progetti non ne abbiamo tantissimi, perché il mercato purtroppo non ce ne lascia. Non ce ne lascia. E quindi apriremo in seguito nel mercato europeo, perché oggi per avere una presenza sul mercato cinese bisogna avere un brand name, quindi una presenza netta sul mercato europeo o americano, e dopo questo salto si può accedere al mercato cinese, che è un mercato molto, molto selettivo, in cui le giovani generazioni incominciano a consumare il Made in Italy, perché si sono accorti che è un prodotto valido, è un prodotto di qualità, e quindi è per questo che i consumi stanno migliorando di anno in anno. Però è anche un mercato in cui la gente vuole anche un brand name, vuole un nome, e questa qualità deve essere suffragata anche da una realtà, diciamo, di brand name europeo. I tessuti invece in Cina siamo una realtà da anni, siamo uno dei più grandi fornitori di tessuti cinesi. Soprattutto vendiamo in Cina tessuti di puro cashmere, quindi compriamo il cashmere in Cina, lo trasformiamo in Italia e lo vendiamo in Cina, e questa è una grossa soddisfazione anche da parte nostra, riuscire a imporsi con un loro prodotto di materia prima e con il nostro prodotto, in un paese dove è molto ambizioso, in un paese dove la gente è molto competitiva, e questo ci dà la voglia di continuare e di sentirsi sulla strada giusta, diciamo. Negli ultimi 20 anni Giancarlo Colombo si è recato 2 mesi all'anno in Cina, vista la passione per il viaggio e la ricerca della materia prima. In quei viaggi ha imparato a conoscere e a lavorare con persone con culture totalmente differenti. A me è sempre piaciuto viaggiare, già da giovane ho viaggiato in tanti paesi, un po' in tutto il mondo, dal Sud America al Nord America, all'Africa, al Medio Oriente, e quindi sono andato sempre alla ricerca della materia prima, che per me è sempre stato una cosa che mi ha sempre attratto, quindi dai paesi del Centro Asia, proprio paesi dove andare in Kazakistan o in Kirghizistan o in Uzbekistan, era per, o lo stesso Iran, dove ci vado ogni 2 anni, che per me è un paese molto molto bello. E un aneddoto, diciamo qualcosa, mi ricordo in Cina che quando andavo in Inner Mongolia, al mattino alle 9 facevamo le prime riunioni di lavoro e mi facevano bere quantità enorme di grappa per sondare da una parte la mia forza e dall'altra parte poteva essere vino veritas, la sincerità di una persona. Quindi il business era anche da parte loro affrontato in questo modo qua, e quindi si arrivava a mezzogiorno che eravamo già ubriachi, diciamo, dal bere, e in questo caso poi nel pomeriggio bisognava firmare i contratti e quindi bisognava fare un po' di attenzione, perché già allora si parlava di contratti di centinaia e anche di milioni di dollari. Giancarlo Colombo è entrato in azienda quando aveva 20 anni. Studiava al mattino e lavorava al pomeriggio. Partendo dalla gavetta, ha acquistato sul campo la conoscenza del lavoro tessile e ha imparato i valori fondamentali del mestiere. Diciamo che la famiglia è un punto fermo nella nostra azienda. Dal papà abbiamo imparato la professionalità, la serietà professionale, la dedizione al lavoro. Il papà chiaramente era un po' fatto alla vecchia maniera, ma questi sono i valori che rimangono e che bisogna anche insegnare ai giovani, e più che ai giovani, a tutti, alle future generazioni e anche alla gente della propria generazione. Io spero che rimanga un'azienda familiare, anche perché rimane sempre un'azienda di dimensioni piccole e medie. E credo che un'azienda in questi termini può dare anche delle gratificazioni che forse passando la proprietà ad altri venga un po' a meno gli stimoli, la voglia proprio di sentirsela propria e di continuare il lavoro. Le nuove generazioni saranno all'altezza sicuramente. Adesso all'interno della ditta c'è mia figlia che svolge una parte commerciale e ben fra qualche anno entreranno anche i figli di mio fratello. E credo che quindi le persone per mandare avanti l'azienda ci sono. E poi vedremo, diciamo, sarà poi il mercato a decidere come al solito, cioè se siamo all'altezza di poter continuare o dovremo, purtroppo, io spero di no, cedere l'azienda ad altri. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.